seppellire ed essere seppelliti. Sono stato di recente ad un funerale. Nulla di particolare perché ho presenziato ad altri funerali e molto probabilmente sarò presente ad altri ancora, ma ad un tratto, durante la cerimonia, ho afferrato una verità che mi è balzata alla mente. Al termine della funzione, quando è stata calata la bara nella terra, mentre veniva opportunamente coperta con della terra, mi sono reso conto maggiormente del significato dell'atto di seppellire una volta per sempre qualcuno o qualcosa. Seppellire o sotterrare qualcosa o qualcuno non ha solo il significato di porlo sottoterra, ma il gesto vuol significare che la cosa o la persona non ha e non avrà mai più un contatto con i viventi. Seppellire significa rompere ogni relazione che si aveva in precedenza, significa dover fare a meno di una cosa o di una persona anche. Questa è anche la ragione per la quale il calare la bara sottoterra rappresenta il momento generalmente più difficile del rito funebre. Alla vista di quella scena prendiamo coscienza che non c'è più nulla da fare. Ogni speranza è per sempre sparita e la sua assenza è paragonabile allo spegnere la debole fiamma di una candela in una camera buia. Non rimane che l'oscurità più totale. Seppellire un morto è l'ultimo possibile gesto estremo nei confronti di questo, dopodiché quello che è stato e niente potrà più essere fatto nei confronti del defunto. Anche se il nostro congiunto era defunto, potevamo comunque baciarlo, accarezzarlo, vederlo, ma dopo la sepoltura nella terra, il distacco è irreversibile, la possibilità di vederlo è nulla, ma proprio nulla. Ho presente il dolore straziante di una madre, alla quale era morto, un figlio di 20 anni, la quale, mentre avevo il compito di esprimere alcune riflessioni in merito alla morte, udivo ripetere del continuo, non cic, e più, non cic, e più. Questo già è la morte, ma molto di più lo è il seppellire un morto. In un gesto di pazzia, qualcuno potrebbe anche tenere il morto in casa e conservarlo con apposite apparecchiature, ma seppellendolo, annunci con il tuo gesto di acconsentire per sempre ad allontanarti da lui e a non avere mai più avere con lui una relazione. Non perché lo vuoi, ma perché non puoi fare altrimenti. Dato che ormai è morto e non puoi più avere comunione con lui, tanto vale che ora tu te lo tolga davanti agli occhi e che lo seppellisca. Nel seppellire annunci una morte già avvenuta e il gesto annuncia una totale rinuncia ad un eventuale rapporto. Ma non si seppelliscono solo i morti fisicamente, perché nel corso della nostra vita occorre sotterrare innumerevoli cose e relazioni con persone che sono ancora viventi. Ho presente quella mattina del 2 ottobre 1999 quando il sole scaldava e illuminava il balcone del mio vicino. Era un uomo violento, brutale, invidioso, dispettoso, alcolizzato, senza amore naturale. Aveva litigato con tutti e picchiato i più deboli. Era quindi anche un vigliacco. Aveva picchiato a sangue i figli e la moglie più di una volta. E aveva tentato di picchiare anche me. Con la scusa che era un invalido, poteva dire e fare quello che voleva. La polizia lo sopportava, le persone lo compativano, era odioso e odiava tutto ciò che non gli andava. Ma quel mattino il mio vicino non si scaldava come al solito ai primi raggi del sole. Era morto. Quando uno muore termina anche il suo odio. Quando viene anche seppellito il suo odio, un odio che non può più nuocere. Eppure molte persone nel seppellire un corpo spesso ne fanno risuscitare le gesta. Conosco una persona che, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha subito la morte di molti parenti. Ogni volta che parlo con lei, come una giaculatoria religiosa, ricorda con un evidente e insopportabile rancore i vari dittatori che sono stati la causa di tante vittime innocenti. Ormai la Seconda Guerra Mondiale è terminata da più di mezzo secolo e con essa sono estinti i colpevoli di tanta strage di vite umane. Eppure, nella mente di questa persona, i dittatori non sono morti, ma li dissotterra o li riporta alla luce con il suo odio e rancore. Seppellire o sotterrare qualcuno significa che la persona non ha e non avrà mai più un contatto con i viventi, ma se chi vive ne riporta alla memoria in modo negativo le gesta, permettendo che esse condizionino il presente, la persona che si odia è disseppellita. Seppellire significa rompere ogni relazione che si aveva in precedenza, ma se questa relazione continua ad esistere, di fatto si continua a toccare il corpo dell'estinto. Quante persone non hanno seppellito delle reazioni belle o brutte che siano? Ho presente una donna che aveva avuto una relazione idilliaca con un uomo, ma la morte di questo per il resto della sua vita non ha fatto altro che ricordare il loro rapporto, incapace di rifarsi una vita con un altro uomo perché quello morto condizionava il presente. L'uomo con il quale aveva convissuto era morto, ma la vedova non lo aveva seppellito perché ne baciava e ne accarezzava ogni giorno il ricordo. Vi è un modo sicuro per seppellire una volta per sempre persone che hanno lasciato tracce negative nella nostra vita, o situazioni che vorremmo dimenticare, ed è il perdono. Il perdono al quale si rifà il Dio Trino non è un atto religioso per far tacere un dovere moralistico, ma è quell'atto mediante il quale avvenimenti e persone non hanno più influenza nella vita presente. Il vero perdono non è indulgenza, perché l'indulgenza è uno sforzo, tende a cercare le circostanze attenuanti, tende a scolorire le offese, a mentire in qualche modo a noi stessi, a fare violenza alla propria coscienza per scusare gli altri. Chi perdona guarda il male in faccia, lo misura in tutta la sua forza e poi lo perdona proprio perché ci è il male. Una volta perdonato si seppellisce il passato e se noi ricordiamo il passato, se ciò che è accaduto ha in qualche modo il potere di condizionare il presente, stiamo dicendo che non abbiamo perdonato e quindi non abbiamo seppellito la persona con le sue gesta. Dio ha scelto il perdono come mezzo di sepoltura e chi non accetta di perdonare troverà sempre nella sua vita il cadavere di chi non avrà perdonato. Ma, oltre che perdonare gli altri, occorre anche perdonare se stessi e questo atto non è meno difficile del primo. Sembra un luogo abbastanza comune, ma più volte ho visto persone che dopo aver seppellito il loro morto portano a casa dei pesi e dispiaceri per non aver fatto tutto il possibile verso coloro che amavano. La morte dell'estinto sembra aver determinato nel cuore di queste persone un senso di incompiuto per non aver amato il loro caro di un amore del quale avrebbero voluto amare. E così, dopo la sua sepoltura, queste persone si trascinano dei sensi di colpa inesistenti, sensi di colpa che devono essere seppelliti. Spesso questa sofferenza causata dall'essere venuti meno a un dovere nasconde un piacere inconscio, derivato da un altrettanto inconscio condizionamento religioso addotto dal cattolicesimo romano. Cioè l'insegnamento di dover offrire qualcosa per essere graditi a Dio, una pura formalità religiosa, incapace però di togliere per sempre sensi di inadeguatezza. La religione insegna a perdonare. Ma il credente formalista, non avendo realizzato il vero perdono ottenuto una volta per sempre da Dio per mezzo di Cristo, non è in grado di seppellire per sempre i cadaveri di sentimenti negativi o sensi di incompiutezza. Così, non seppellendoli una volta per sempre per realizzare un distacco totale, ci sono persone che accarezzano ogni giorno i loro cadaveri con diabolica soddisfazione. Oltre che seppellire una volta per sempre sentimenti negativi, chi ha posto fede in Cristo deve realizzare di essere lui stesso seppellito. Questo aspetto è riferito in merito alla sua vita passata, che l'Apostolo Paolo ricorda nella sua lettera scritta ai Romani. Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Romani 6:1. In questo brano l'Apostolo Paolo sta parlando della difficile dottrina della grazia perché fra i convertiti alla fede in Cristo vi erano alcuni che sostenevano la liceità di peccare affinché fosse messa in evidenza maggiormente il perdono di Dio. Abbiamo un notevole esempio storico di questi fautori nel monaco russo Rasputin, il quale negli ultimi anni del suo potere insegnava e metteva in pratica la dottrina della salvezza per grazia per mezzo di esperienze ripetute di peccato e di pentimento. Rasputin affermava che un peccatore più pecca e più si pente ottiene perdono, più gode la realizzazione della grazia che di un semplice peccatore. Secondo alcuni, questo punto di vista è molto più diffuso di quanto si creda, anche se non è praticato in modo tanto spettacolare come nel caso di Rasputin. Perciò, l'Apostolo Paolo ricorda ai credenti di Roma che chi ha posto fede in Cristo non solo, identificandosi con la morte di Cristo, è morto al peccato, ma in lui è stato anche seppellito. Con il termine seppellito Paolo vuole proprio dire quello che abbiamo considerato. Colui che ha un santo timore del Dio Trino non ha e non deve avere più un contatto con il peccato. Egli rompe ogni relazione che aveva in precedenza con ciò che Dio disapprova, rinuncia ad ogni relazione umana che non è approvata da Dio. Non nutre, ma anzi, deve lasciare ogni speranza di poter ritornare alla vita di prima. Seppellire la vita passata con le sue trasgressioni, per un credente è l'ultimo gesto estremo possibile nei confronti del peccato. Dopodiché, quello che è stato, e nessun rapporto potrà più esistere nei confronti di ciò che è male. Il punto è questo. Vi sono credenti che ritengono il mondo e il peccato morti nei loro confronti, ma ogni giorno con gli occhi, mediante la televisione, i divertimenti e con i piaceri illeciti della tavola, accarezzano i loro cadaveri. Se è difficile seppellire ciò che ci circonda, è ancora più difficile essere seppelliti. E questo, molto probabilmente, perché la rinuncia totale ed estrema rappresentata dalla sepoltura è un'esperienza alla quale non siamo abituati. Solo con una vera relazione con Cristo è possibile rompere definitivamente ogni relazione non lecita. Gennaio 2007. Ellero,